per Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pierluigi Pardo, ti piacerebbe condurre Paperissima? Ma non particolarmente, però perché parliamone, cioè voglio dire, sì. A me sì, molto. Ogni tanto, figurati, ogni tanto la tentazione di farlo per radio, anzi lancio subito il radio voto. Ah, allora quella Paperissima lì possiamo anche condurla insieme, quella mi 800 24 00 24, oppure SMS 349 238 6666. Lancio subito il radio voto, perché ho la tentazione di farlo per radio, usando solo dichiarazioni di sportivi e dintorni. Oggi alcune tre perle assolute. La prima è il presidente del Napoli alla Luis di Roma, a margine di una conferenza sul cinema. Eccolo qui. Questo è il ballo del qua qua, è di un papero che sa fare solo qua qua qua più qua qua qua. Presidente, sto del Navarro, come va? Appena è te che arriva Higuaín, no? Questo stronzo di Cannavaro cosa fa? Pia una barca, senza fattura, pagata al nero, lo porta una... A Cavi? A Cavi? Lo pure... Voto alto, eh? Voto altissimo, era una battuta ovviamente, no? Sta claro, non si discute, no? Era una battuta, era una pubblica, ma una battuta, insomma. Bisognerebbe sentire la reazione di Cannavaro. Allora, seconda gemma, Sepp Blatter, presidente della FIFA, ormai ampiamente affetto da demenza senile, con tutto rispetto per quelli che hanno questa malattia, però non c'è bisogno di fare... Secondo me certe scene alla Oxford Union Society. The other one is he's like a commander on the field of play. That gives life to football and one has more expenses for the hairdresser than the other, but doesn't matter. So I cannot say who is the best. Vi invito a guardarla su internet. Peggio Blatter, peggio. Molto peggio Blatter. Allora, per contestualizzare, non abbiamo il video, ma potete vederlo anche su Twitter, sul nostro, ma è diffusissimo. Blatter che dice: Messi è un bravo ragazzo, il figlio che ogni genitore vorrebbe, è molto veloce, sembra danzi col pallone, è anche simpatico. L'altro invece, Cristiano Ronaldo, è così simile a un comandante, si alza e mima Cristiano Ronaldo facendo le mosse del robot. Posso fare un sondaggio? Sì, come no, certo che allora, puoi. Devi. Me lo dico schierando. Allora, io se adesso per il momento non ho grandi desideri di paternità, forse mi dovrebbero anche venire prima o poi, ma questo è un altro discorso. E io dei due preferirei avere come figlio Cristiano Ronaldo. Io anche. Non c'è discussione. Il dibattito aperto, ascoltatori, votate 89-24-24 8-0-0-89-24-24. Bene, poi dice anche, l'avete sentito, l'altro spende un sacco di soldi dal parrucchiere. Mi piacciono entrambi, ma io preferisco Messi. Giustamente il Real Madrid si è infuriato. A mio figlio Cristiano Ronaldo pago pure il parrucchiere, guarda. Sì. Non tutti i giorni, perché sennò bisogna fare molto. Il lunedì è chiuso, quindi già un giorno già a posto. Un altro gioca e quindi quante volte si può andare a settimana. Allora, terzo gradino del podio, caro Pierluigi, almeno per me, poi sentiamo gli ascoltatori. Terzo gradino del podio per il sindaco di Roma, Ignazio Marino, questa mattina ai microfoni di Radio Rai. Attenzione! L'ultima! E giuro che se la Roma vince lo scudetto, mi spoglio. Signor sindaco, questo è troppo, eh? Vabbè, non mi spoglio, ma non parliamone più, perché i tifosi sono scaramantici e secondo me se stanno già Come la vedi questa? Ma non può essere lui, dai, una paradia questa. No, è lui. Supermax su Radio 2. Se la Roma vince lo scudetto mi spoglio, vabbè, non mi spoglio, però... No, i tifosi stanno già a grattà. Questo è divertente, diciamo, non è molto nello stile di un politico, però insomma mi sembra onestamente la meno grave delle tre, ecco. Sì. Ma per me la più grave delle tre è Blatter, no, perché alla fine De Laurentiis stava lì insomma lo sappiamo, il presidente è colorito, se lasciano andare, certo che Cannavaro non avrà apprezzato. C'è anche quella battuta lì sul, dobbiamo dire battuta sulla barca pagata in nero, che non è bellissima, però il momento di lotta all'evasione fiscale, Maradona, certo dell'ombrello, insomma, sì. Ricordiamo che il nero non dovrebbe esistere in Italia. Siamo in un paese strano. Siamo in un paese strano. 800 24 00 24, il vostro numero verde. Ti è piaciuta Atalanta Inter? Mi è piaciuta, sì, mi è piaciuta perché è stata una partita molto intensa, incerta fino alla fine. L'Inter poteva vincerla, però onestamente la poteva vincere anche l'Atalanta con quell'occasione di Yepes. A me sembra un risultato giusto alla fine. Sì. È evidente che l'Inter ha dei valori tecnici superiori all'Atalanta, però secondo me l'Atalanta ha fatto tutto quello che poteva fare per complicarla e ha strameritato il pari. Sono d'accordo, infatti quando due allenatori dicono abbiamo giocato meglio noi, dicono entrambi abbiamo giocato meglio, noi meritavamo qualcosa in più, di solito vuol dire che è stata una buona partita e che il pareggio è sacrosanto. Però subito dopo il traffico, caro Pierluigi Pardo, con Franco Piantanini, autore di questo programma, e Roberto Scaltritti in regia, che si divertono come matti, subito dopo le strade chiediamo un'interpretazione autentica su Atalanta-Inter. A dopo. Tutti convocati. 800 24 00 24, già diversi messaggi, c'è chi ti vorrebbe come fratello maggiore altro che Ronaldo, caro Pardo. Stefano da Udine. No, c'è gente bellissima in giro, no, simpaticissima, veramente sono giorni bellissimi da quel punto di vista, quindi grazie per questo ascoltatore. Sì, c'è anche qualcuno che ti ha fatto il verso per radio, ma magari ne parliamo dopo. Io intanto voglio salutare, ringraziare e chiedere interpretazione autentica dunque al mister dell'Atalanta, Stefano Colantuono. Buongiorno mister. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno. Tutto bene, grazie. Pareggio ieri meritato, giusto? Appunto, interpretazione autentica. Sia tu mister che il tuo dirimpettaio Mazzarri avete detto meritavamo qualcosa di più noi. Allora, chi meritava qualcosa di più? Ma non lo so, io penso che alla fine il pareggio sia un risultato giusto, ci può stare. Secondo me, insomma, credo anche dal computo delle occasioni nel primo tempo, forse noi abbiamo fatto qualcosa in più. È vero che loro sono andati in vantaggio, ma prima del vantaggio dell'Inter avevamo creato un'occasione grossissima, hanno salvato sulla linea, poi c'è stato un altro colpo di testa di Guedes. C'erano state delle situazioni che potevano permetterci di fare bene. È chiaro, poi nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata, ci sono state occasioni, un'occasione da una parte e una dall'altra, alla fine direi che comunque il pareggio è il risultato più giusto. Mazzarri ha parlato di ingenuità dell'Inter, insomma rispetto alle altre tre, è questo il limite, la distanza che ancora separa l'Inter da Roma, Napoli e Juve? Ma io questo è un limite, non lo so, tecnico? Sì, non lo so, l'Inter ieri sera sicuramente ha trovato delle difficoltà perché di fronte aveva una squadra che ha lavorato bene, che ha corso, che ha pressato, che ha creato, che ha giocato, quindi non era facile ieri sera giocare contro di noi, credo che l'abbia riconosciuto anche Mazzarri in conferenza stampa subito dopo la partita. Quindi al di là dei demeriti dell'Inter, che io non voglio giudicare, ci mancherebbe, io credo che ieri l'Inter abbia fatto fatica perché ha trovato davanti un'ottima Atalanta. Certo che mister, un giocatore come Dennis risolve tantissimi problemi, sempre. Beh, Dennis è lì per fare quello, insomma, noi ce lo teniamo stretto, non a caso l'abbiamo portato qui in un momento suo non brillantissimo, perché non era l'Udinese ma giocava un po' poco, però noi l'abbiamo voluto portare qui perché pensavamo che potesse essere un giocatore utile alla nostra causa, e devo dire che in questi anni lo ha dimostrato timbrando con regolarità il cartellino, nel senso che ha fatto gol, nei primi due anni ne ha fatti 31 e speriamo che quest'anno possa ripetersi ai livelli degli anni precedenti. Piero, un giocatore così è indispensabile sulla via di qualunque salvezza. Secondo me è un giocatore che devi avere per una squadra così. Forse questo, se vuoi, è chiaro che se vuoi fare un campionato, se il tuo obiettivo è quello e vuoi fare un campionato tranquillo, come ci è capitato a noi in questi due anni, anzi, il primo anno, l'anno della penalizzazione, siamo andati ben oltre le più rosee aspettative perché abbiamo messo insieme 52 punti, è chiaro che devi avere giocatori che ti fanno gol, perché nel nostro campionato è difficile terminare sempre la partita con la casella a zero nei gol subiti, e allora avere qualcuno che comunque ti riesce a rimetterla in equilibrio come ieri sera o in tante altre occasioni riuscire a sbloccarla diventa determinante. Come si tiene alta la tensione? Tu in questo sei veramente, i risultati parlano chiaro, no? Sei proprio un allenatore e l'Atalanta è un ambiente che quasi sempre c'entra gli obiettivi, no? Che riesce, prendi i provvedimenti, tocca ferro, fa quello che ti pare, però insomma molto spesso le salvezze sono assolutamente tranquille. È complicato riuscire a tenere alta la tensione? C'è un segreto da questo punto di vista? Ma non lo so se c'è un segreto, sicuramente quella è la cosa un po' più complicata, perché vai a toccare cose che non riguardano l'aspetto puramente tecnico-tattico, perché sull'aspetto tecnico-tattico ci lavori sul campo e quindi è un lavoro che tu puoi vedere, sai che lo fai ed è tangibile, perché quando vedi che la squadra poi si muove bene o lavora bene significa che hanno assimilato quello che tu hai fatto sul campo. Per quello che riguarda l'aspetto, chiamiamolo così, puramente psicologico, perché poi questo è un aspetto psicologico, perché tenere alta la concentrazione è un lavoro di stimolo e tu lo puoi fare con la voce, però, e non sai se però il messaggio è recepito o non recepito, te ne accorgi poi a fine partita. Ma sai, a fine partita però hai già fatto tutto, e quindi se hai fatto la frittata già l'hai fatta. Devi riuscire a toccare le corde giuste, devi riuscire a tenere la squadra sempre con una concentrazione alta. Però ti ripeto, tu questo lo puoi verificare solo dopo. Sì, sì. Dopo sono tutti bravi, è come quelli che fanno la schedina il lunedì, fanno sempre 13. Che altro devi fare per meritarti una grande, con tutto rispetto per l'Atalanta, un ambiente bellissimo, caldo, appassionato, però insomma, da questo punto di vista, insomma, che per la carriera che hai fatto, per la regolarità, ecco, perché la cosa eccezionale di Colantuono, come anche quella per Mazzarri, insomma, è che hai una percentuale di stagioni positive altissima, no? Che manca? Ma non lo so, dai, queste sono cose che devono giudicare gli altri. Io sono contento di quello che sto facendo, ringraziando Dio, da quando ho cominciato sto lavoro ho sempre portato a casa quello che mi era stato chiesto quando ho finito il lavoro, perché in alcune circostanze non sono riuscito a finirlo, anche se poi sono stato richiamato, ma con situazioni paradossali, perché ho subito un esonero da sesto in classifica in Serie A, quindi sì. A volte ci sono delle cose paradossali, e un altro uguale, una situazione buona, poi sono stato richiamato, abbiamo completato l'opera. Diciamo che quando il lavoro l'ho portato dall'inizio alla fine a termine sono stato sempre fortunato, siamo stati bravi, non lo so, mettetela voi com'è. L'ha messa giusta a pardo, mister. Ho fatto quello che dovevamo fare, ora fare discorsi, come si dice, di progetto, di futuro, non lo so, io questo per me è un ambiente ideale, dove si lavora molto bene. L'Atalanta è una società molto molto organizzata, una società dove ti può permettere di lavorare bene e dove soprattutto c'è una società che non ha falsi umorali, nel senso che ti dà la possibilità di lavorare sapendo che nell'arco di un campionato e non ti manca Gianparini, non c'hai proprio non credo, non ti manca Gianparini, non lo sogni, questo l'hai detto tu, io non ho fatto nomi, ci mancherebbe. No, io ho la fortuna di lavorare con Percazzi e con Marino, che sanno che nel nostro percorso ci possono essere anche delle battute d'arresto, c'è capitato di perdere tre di fila, però loro hanno come si dice la consapevolezza del lavoro, perché seguono quello che facciamo, non stanno lontano. Marino è tutti i giorni qui, lui vede come lavoriamo e come prepariamo le partite, e quindi se anche c'è qualche battuta d'arresto hanno la serenità e la pazienza di giudicare il lavoro, e il lavoro io dico sempre che poi alla fine paga, come è stato finora nel nostro caso. Poi mister, andando avanti vedremo. Vorrei tornare sull'aspetto di prima, cioè quello dello psicologo, lei lo usa? Sì. No. Perché Oddo ieri ci diceva, vero Pardo, la Roma sarebbe un fenomeno da psicanalizzare, dalle grotte del derby perso in Coppa Italia al cielo del campionato perfetto. Ma io non credo che la Roma sia così difficile analizzarla. No? Ma secondo me no, però poi la Roma è una squadra forte, ma lo era anche negli altri anni, non c'è niente di... magari quest'anno è un po' più normale forse. È un po' più normale. Sì. Prima era... La chiave è quella, no? Io la peso come te, prima era un po' anormale. Cioè, non mi permetto di giudicare il lavoro degli altri, però no, se io vedo la Roma oggi, vedo una squadra che che lavora, si sa difendere anche basta, insomma lavora bene, si fanno gruppo, e De Rossi è un giocatore che gioca sempre e sta lì. Cioè, vedo a volte il calcio, magari siamo proprio noi allenatori che magari lo rendiamo un po' più complicato, no? Invece poi magari il calcio è molto, molto, molto semplice. La Roma secondo me è forte perché ha dei giocatori forti, un allenatore che ha saputo come si dice, dare una sorta di impronta, ma se però andiamo a guardare anche negli anni precedenti giocava nella stessa maniera, giocava 4-3-3, no? Gli interpreti, qualcuno era diverso, c'era Lamela, ora magari c'è Gervinho, per cui però siamo lì, il valore è quello, e quindi direi che la Roma sta facendo le cose che la squadra fa, è brava, c'ha giocatori di qualità, si difende bene, se c'è da ripartire riparte, se c'è da fare la partita la fa. Comportamento da squadra forte, perché è una squadra forte, c'è giocatori forti. Ci mancherebbe. Chi lo vince il campionato? Ma io penso che dopo questo inizio di campionato la Roma può entrare con pieno diritto tra le pretendenti, così come il Napoli, fermo restando che io penso ancora che la Juve sia un gradino sopra le altre. Sì, io faccio tipo, cioè, sarei molto felice che vincesse la Roma oppure Napoli, sarei molto felice di questo, anche se mi vengono i brividi alle dichiarazioni di Ignazio Marino stamattina. Se vince mi spoglio. Quello tu, mi fa tu Cola, se ti spogli, se andate in Europa League, ti spogli, strappa. Io non mi spoglio, no, sarebbe uno spettacolo. C'è una bella fisicata, Cola, voglio dire. Vabbè, perché invece Marino spettacolone, facciamo spogliare Marino magari. No. Ma Marino il sindaco di Roma. Marino il sindaco, io parlavo di Marino nostro. Allora facciamo una cosa, facciamo, se succedono quelle due cose, i due Marino, facciamo spogliare i due Marino. Va bene, mi sembra abbiamo deciso noi per loro, ditemelo che prendo un biglietto per un'altra parte del mondo. Ditemelo prima. Un'ultima cosa, mister, ti chiedo di leggermi le partite di stasera, due partite di stasera, Milan-Lazio, sì, già bollente, Fiorentina-Napoli. Sì. Grande fascino, sì, di questa partita che si profila meravigliosa. Beh, due bellissime partite, sono quattro squadre che fanno un altro tipo di campionato rispetto a quello che abbiamo menzionato poc'anzi, che è poi quello che riguarda noi. Sono quattro squadre che sicuramente alla lunga poi lotteranno per altri obiettivi. Sono belle partite, hanno tutti degli interessi particolari, c'è molto equilibrio in tutte e due le partite, perché le quattro squadre sono tre squadre di livello, per cui il pronostico è di difficile interpretazione. Grazie. Grazie mister. Grazie, buon lavoro, a presto, Grazie, a presto, grazie. Pieno di spogliarelli questa stagione, ormai qua. Ma fate giù a deve spogliare, c'è una cosa, no? Meno male che sta venendo freddo. Senti, ma stasera è Tiki Taka, no? Dopo Tiki Taka, mi fai fare, mi fai, sì, far tardi un'altra volta? No, beh, stasera 23:20, un orario quasi normale, subito dopo le partite, tutti i gol. Le interviste, le moviole, Cesare, Arrigoe, Massimo Otto, ex di Milan e Lazio, ovviamente Milan Lazio grande partita, Pino Tagliatella da Napoli. Come la vedi Milan Lazio? A proposito, come la vede Otto, nel senso che la vedo una partita un po' bloccata, sì. La vedo bloccatissima dalla paura. Ci sono dichiarazioni di Galliani di cui poi parliamo. Una è questa: Galliani, Balotelli continuerà ad essere la stella del Milan. Vabbè, lasciamo stare il numero 45, lasciamo stare. Le quote del Milan non sono in vendita, non c'è nessun programma di vendere quote del Milan, non so se era necessaria smentita su questo fronte. E poi ha detto che Montolivo è stato briffato, la sai questa? È stato briffato perché lui era capitano a Parma, quindi va bene l'arbitro, ha detto Galliani, però era compito suo andare a fermare quel pallone, a sistemare le cose con l'arbitro, a mettere a posto la barriera. Quindi Montolivo, tu sei ammonito. Guarda, l'altra sera Melissa Sappa a Tiki Taka ha detto una cosa a proposito del fatto poi di non essere solo belli, però secondo me è molto interessante, cioè che in questo momento il Milan vive una fase di scarsa leadership, nel senso che c'è un po' di questa generazione di mezzo, è finito il tempo di Maldini, Costa, Curta, dei giocatori ma anche di Ambrosini, giocatori di una certa personalità che potevano servire a Balotelli a comportarsi bene, insomma a tracciare la rotta, e in campo in certe situazioni a dare un po' le proprio a mettere un certo tipo di carisma. Io credo che quello che è successo l'altro giorno nella punizione del gol del 3-2 del Parma è una cosa assurda. Poi è chiaro che chiaramente le tragedie vengono in tandem, la figa ci vede benissimo, per cui tu concedi 8 metri, la barriera si apre e il portiere non la prende. Però tu pensa appunto Capello, quello che avrebbe fatto Capello in una situazione del genere, con la punizione battuta, no, 8 metri più avanti. Andava lui su quella palla, andava lui su quella palla, sì. E gli stessi giocatori avrebbero protestato. Quindi c'è un problema, secondo me, un po' di leadership in questo momento. Di carisma, non è esperienza. Montolivo, insomma, la dichiarazione di Galliani va in questa direzione, cioè Montolivo deve essere caricato non solo dal punto di vista tecnico e certamente alle qualità per poterlo fare, ma dal punto di vista caratteriale. Qui si torna a un vecchio tema sul quale ci tempi di Firenze qualcuno su Montolivo. Sì, io Montolivo secondo me ha fatto una stagione scorsa meravigliosa, in questa stagione è ampiamente deludente. 800240024, Pierluigi Pardo, ci sentiamo dopo la borsa. Tutti convocati. Fatemi risentire per favore la gemma di oggi, De Laurentiis. Capitano io, Vabbè, però lo so. Presidente, sto del Navarro, come lo vede? Ma che pare a te che arriva Higuaín, no? Questo stronzo di Cannavaro cosa fa? Via una barca, senza fattura, pagata al nero, lo portano a Capri. Presidente, comunque vogliamo vincere noi, Pronta replica su Twitter, caro Pardo, del presidente del Napoli. Mi sorprende che vengano prese seriamente battute fatte in un chiaro momento goliardico. Anche con Paolo ora mi sono fatto 4 risate. Va bene, dai, secondo me prendiamola, ecco, 20 minuti fa, quindi proprio ci stava probabilmente ascoltando. In parte così, non ho dubbi. L'avevamo detto, insomma, delle tre. Non ho dubbi, che sia così. Gaffe, diciamo che quella grave è quella di Blatter, perché Blatter è il presidente della FIFA, perché comunque sappiamo che ogni anno il pallone d'oro viene vinto da Messi. È chiaro che lui ha un potere di condizionamento molto forte, perché insomma, l'ho trovata veramente di cattivo gusto questa differenza tra i due migliori giocatori. Invece Pier, di grande eleganza, adesso voglio gli ascoltatori, voglio voi, 800, vogliamo voi, 800240024, di grande eleganza invece la risposta di CR7 su Facebook. Questo video dimostra chiaramente il rispetto e la considerazione che la FIFA ha per me, per il mio club, per il mio paese. Auguro al signor Blatter salute e lunga vita, con la certezza che continuerà ad assistere come merita ai successi delle sue squadre e dei suoi giocatori preferiti. Applauso. Questo Cristiano Ronaldo. La tocco piano, no, l'ha presa bene soprattutto. Però posso dirti, lui ha, secondo me, il dente avvelenato, ha ragione. Perché negli ultimi anni, allora, innanzitutto Cristiano Ronaldo, nel suo essere uno degli uomini più fighi del globo terracqueo, ha una clamorosa sfiga. Cioè, è nato nella stessa generazione di Messi. Cristiano Ronaldo è un numero uno, secondo me, non ha niente. In un'altra generazione avrebbe dominato senza nessun problema. Ma secondo me è il numero uno, Sì, allora. Per i miei gusti, anche per i miei. Però, insomma, siamo io, te e qualche milione di portoghese, sicuramente. Io nella riserva indiana ci sto da Dio, non mi importa niente. Siamo pure parecchi in questa riserva indiana. Poi se Cristiano Ronaldo si presenta con un po' d'amiche, siamo anche in una situazione, diciamo, senti questo, piacevole. Senti un messaggio. Sì. A proposito di striptease da evitare. Quello che per il quale si è autoproposto Ignazio Marino, sindaco di Roma, è quello che ha proposto invece Stefano Colantuono prima qui da spogliarello di Marino, l'altro suo DS Pierpaolo, il caso di salvezza dell'Atalanta. C'è un ascoltatore che scrive: due Marino non fanno una Marini. Una buona. Luciano Belluno, buongiorno. Buongiorno, io non è pericolo che faccio spogliarello. Meno male. Cos'è che non ho sentito? Perché sono interista, allora non c'è pericolo che faccia spogliarelli. Volevo chiedere anche una cosa, perché sono molto fans di Pardo. Perché squadra FIFA Pardo? Non vivo, io ne ha... come... No, una squadra ce l'ha. Posso dichiarare? La partenza. Ho capito. Il fantacalcio che fatica tantissimo. Allora, no, veramente. Pardo come, è tifoso come... della nazionale femminile di pallavolo. Ah, però quello chiunque, penso, no? Ma non solo della nazionale italiana, in tutte le altre, tra l'altro. No, a parte tutto, no, veramente. Poi la vita, gli intrecci, i giocatori, gli amici che cambiano squadre. Poi ci sono delle cose veramente anche pietose che sono anche un po' schine, no? Che magari inviti un ospite per la trasmissione e insomma speri che non perda 4-0 dopo aver invitato, perché è chiaro che se perdi 4-0 non ti viene in trasmissione lunedì, quindi fa, diciamo, ho la rimozione dei sentimenti. E questo non è bello, ce l'ho anch'io. Massimo, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, tifoso Viola, però siccome avete parlato di Montolivo, una cosa al volo, il carisma di Montolivo è lo stesso di una pasta al burro fredda del frigo del giorno prima sul campo da calcio, perché è così da sempre. Ma l'anno scorso però Massimo ha fatto una stagione anche di grande personalità, quest'anno invece ieri leggevo ancora sconcerti scrivere che Montolivo sta giocando come un quarantenne, e concordo, mi sembra una definizione corretta, visto che quarantenne o ultra quarantenne lo siamo tutti, cioè sta giocando piano, sta giocando senza personalità, è capitano del Milan, è un giocatore che ha i colpi, è un giocatore che può fare il leader, se non è emotivo tecnico non lo sta facendo. Al leader manca, al Milan manca un leader tecnico e un leader emotivo, che sono cose un po' diverse. Sulla totale assenza di personalità di Montolivo non sono così d'accordo, alla luce del credito aperto la scorsa stagione. Pier. Guarda, io penso che lui sia un grande attore, non protagonista è sbagliato dirlo, è un coprotagonista. Cioè, secondo me è un giocatore tecnicamente di livello che ha bisogno di figure molto forti dal punto di vista caratteriale vicino. Poi può esaltarci. È chiaro che nel Milan di questo momento è un giocatore al quale viene richiesto, con l'investitura della fascia di capitano e con comunque una qualità tecnica che lì in mezzo al campo ha soltanto lui, con tutto rispetto per gli altri, gli viene richiesta una personalità che forse non ha. Poi a Firenze sono molto sensibili sull'argomento, anche perché non si è lasciato benissimo, però insomma io credo che appunto chi nasce tondo non muore quadrato, e quindi non si può fare la colpa a Montolivo di non essere proprio un trascinatore, una rock star. Sì, ma chi potrebbe essere un leader in questo Milan? Lascia stare 45, che può essere, secondo me non potrà mai, no, ma semplicemente Pier, al di là di tutto, non potrà mai essere un leader emotivo di un gruppo, perché no, un leader tecnico credo di sì, potrebbe esserlo, ma non ha ancora la sufficiente continuità, ovviamente, ha i suoi problemi, eccetera, eccetera, bla bla bla bla. Il leader può essere anche evidentemente Kakà, insomma, quando starà bene, quando troverà un po' di continuità. Kakà è un giocatore che ha dimostrato che ha vinto la Champions del 2007, non dico da solo, ma insomma è stato il grande trascinatore e comunque ha conservato, diciamo, l'impronta del fuoriclasse, quindi molti altri onestamente non ne vedo. Vedrei Balotelli per l'arroganza in senso positivo, per la forza, per il carisma, però insomma per il momento si sono visti purtroppo da quel punto di vista più i difetti che i pregi. Paolo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, sono io? Certo che è lei. Ecco, benissimo. Me lo auguro. Grazie per la convocazione. Non sono d'accordo sulla partita Atalanta-Inter di ieri sera. Per me è stata una gran brutta partita da parte dell'Inter e un ottimo secondo tempo da parte dell'Atalanta. Se avete ancora lì Colantuono... No, è andato a fare la doccia, ma appena finito l'allenamento. Scommetterei su quello che ha detto nell'intervallo dei suoi giocatori. Alzate la squadra di 10-15 metri e l'Inter non gioca più. Oh, ve lo dice un interista da mezzo secolo. No, ma io capisco che per il tifoso dell'Inter, essendo l'Inter più forte dell'Atalanta, che la partita di sera sia una brutta partita, un'occasione persa, che ci siano ancora delle ingenuità che hanno impedito, secondo me, nelle due trasferte di Torino e di Bergamo all'Inter di fare i tre punti e di volare nella parte altissima della classifica, perché se l'Inter avesse fatto 6 punti invece che 2 adesso sarebbe a livello di Juve e Napoli. però insomma secondo me da tutti i sensi l'intensità è stata una bella partita e giustamente Colantuono sottolinea i meriti. I meriti sono stati quelli di far giocare male l'Inter, che però secondo me deve ancora crescere molto, deve crescere proprio in termini di personalità. Non so se ha la forza onestamente tecnica per secondo poter me no. essere secondo a livello me no. delle prime tre. Crescere ancora è questo, non so quanti margini di crescita abbia quest'Inter, secondo me non tantissimi, perché comunque è una squadra, se parliamo di top team, è una squadra scarsa dal punto di vista tecnico rispetto alle altre. Cioè, beh, Icardi hai visto... Vuoi mettere l'Inter e la Roma dal punto di vista qualitativo? Ma secondo me non c'è una grande differenza. Secondo me sì. Secondo me è che in questo momento la Roma sta mostrando la migliore e quindi chiaramente Benatia sembra un mostro, Castan sembra un mostro, Pjanic... La Roma è una buonissima squadra dal punto di vista tecnico. Probabilmente anche superiore all'Inter dal punto di vista tecnico, però insomma, se dovesse vincere domani andrebbe a più 11 e 11 punti in 10 partite sarebbero secondo me una distanza enorme. No, ma non è competitiva l'Inter. Sta facendo bene ma però vuoi mettere cioè Strootman, De Rossi e Pjanic, e io scusa se insisto sul tasto della linea mediana perché mi piace valutarle così le squadre. Sono giocatori che l'Inter non ha in questa vita attuale, in quella successiva indonesiana non lo so. Però all'inizio dell'anno Handanovic, De Santis, prendevi Handanovic, in difesa Campagnaro, Benatia o Campagnaro Castan, forse prendevi Campagnaro. Io Benatia. Davanti Palacio è insomma un grandissimo giocatore, Icardi è un prospetto interessantissimo, Milito se torna, insomma... Secondo me non è così clamoroso. Se prendi il centrocampo sicuramente sì, perché in questo momento la grande forza della Roma sta proprio nel centrocampo, secondo me in quei tre che riescono a dare una copertura pazzesca e al tempo stesso buone soluzioni offensive, quindi senti, riescono a fare le due fasi in maniera immensa. Abbiamo in linea Alessandro, Franco e Andrea, sentiamo loro dopo il traffico, però prima del traffico te ne dico un'altra bellina del capitolo della serie Mi piace farmi gli affari miei. Sì. Otmar Hitzfeld, ex allenatore del Bayern, adesso allenatore del CT della Svizzera, che dice il vero Kevin Prince Boateng è quello che ho visto con la maglia rossonera, poi il club ha voluto liberarsi di lui per problemi al ginocchio sinistro. Chiedi a Melissa. Stasera glielo chiedo e insomma adesso ho sbagliato il rigore Boateng, però onestamente nel Milan di inizio stagione avrebbe fatto comodo, anche se poi il Milan, se lo guardiamo dalla cintura in su, potenzialmente è una grande squadra, perché Balotelli, Kakà e il Sharawi più Matri, più Robinho, più tutto il resto, insomma è una grande squadra, solo che Balotelli si è visto poco, Kakà sta tornando e il Sharawi non si è visto per niente. Vabbè, traffico, poi torniamo con gli ascoltatori. Tutti convocati. Quanto aveva a scuola Garcia, visto che ieri è diventato anche filosofo in conferenza stampa? Quanto aveva? Ero curioso. Ha studiato filosofia? Non da più che voi. Noi andiamo a vedere la trasformazione che hanno avuto determinati giocatori in questa Roma. Veramente mi metterei sui libri a studiare psicologia per cercare di capire come si possono trasmettere determinate cose a dei giocatori. Il sergente Garcia, che è diventato generale per fortuna, perché è stato accolto in quella maniera, ha impatto psicologico e soprattutto, siccome sento, vedo che viene definito come un allenatore psicologo, no. Riassunto del trattato, bigino del trattato Garcia e la psicologia, grazie a Franco Piantanida. Beh, comunque tutti gli allenatori dovrebbero essere psicologi. Sì, questo non è una... Poi lo fa. No, è molto importante questo. Così come interessante la dichiarazione di prima di Colantuono. La Roma è normale finalmente, e se è normale si vede la qualità di questa squadra. Alessandro, Luca, buongiorno. Buongiorno a lei, gente. Allora, non entro nel merito di chi è più forte sulla mediana, sulla Roma e l'Inter, perché a volte possono essere episodi, a volte essere mentalità, il giusto approccio con l'allenatore, eccetera. Sì, non si sbilancia, sembra di sentire parlare un allenatore dopo una partita. Ma sì, no. Si sbilanci, che male c'è? Non costa niente, è gratis. No, mi sbilancio su un fatto molto semplice, che io essendo interista dopo moltitudini di allenatori, moltitudini di giocatori che sono entrati all'Inter, terne promesse, terne sbocciate, terne no, l'anno scorso è stato messo sulla graticola questo Stramaccioni, questo giovane allenatore che, a cui è stata smontata la squadra pezzo per pezzo. Ora è venuto questo nuovo messia che è Mazzarri. Onestamente risiamo alle solite, cioè non ci vedo un cambio di passo, non vedo un cambio di niente, è la solita Inter di sempre, che probabilmente esonererà Mazzarri per prendere Guardiola, perché non c'è cambio di passo, non c'è cambio di niente. Ma scusa, però va bene, ma abbia pazienza. No, peggio dell'anno scorso no, non sta facendo assolutamente peggio dell'anno scorso. Mi sembra che non siano cambiati gli interpreti, non siano cambiati i giocatori, che a Mazzarri non abbiano poi preso delle superstar. L'Inter mi sembra una squadra invece estremamente vicina ai suoi limiti, sta facendo invece, secondo me, quello che il campionato che deve fare. Poi ha ragione Pardo quando dice, non so se l'hai detto tu o l'ha detto Mazzarri, che poi vi assomigliate anche un po', no. Da che punto di vista? I capelli, il cespuglio di capelli, è molto vicino ai suoi limiti. Manca qualche punto probabilmente all'Inter, però mi sembra che abbia una faccia profondamente diversa da quella dello scorso anno, lasciando stare la favola della trasformazione di Jonathan, di Ricky Alvarez, eccetera, cioè favola. È vero, è reale, è lì da vedere, però Mazzarri, se c'è una grandissima qualità che ha, è quella di far rendere i giocatori molto vicino al proprio limite, e questo sta facendo anche all'Inter. Mazzarri è bravissimo, gli manca solo, l'unica cosa un po' gli manca, secondo me gli manca un certo tipo di capacità di accettare magari certe situazioni, cioè la polemica dopo Torino-Inter da qualcuno potrebbe essere vista come un atteggiamento non da allenatore di grandissima squadra, ma per il resto, dal punto di vista dei risultati, delle prestazioni in campo, del valorizzare e tenere sulla corda i giocatori, Mazzarri è un fuoriclasse, è uno che sbaglia una stagione ogni 20 anni, e francamente non me ne ricordo neanche una sbagliata. È uno che sa adattarsi a tantissime situazioni. Chi lo ha avuto come allenatore ti dice che è bravissimo, insomma, penso di non dire niente di clamoroso. Antonio Cassano, che pure quest'anno è andato via dall'Inter per scelta di Mazzarri, poi ti continua a dire, l'ha dichiarato pochi giorni fa anche, che dal punto di vista dell'allenatore non si discute, la preparazione tattica è eccezionale, la motivazione che dà alla squadra è eccezionale. Ha un po', secondo me, questo limite dal punto di vista della comunicazione, cioè limite, io gli consiglierei di fare e di dire cose diverse in certi momenti, e poi forse sulle tre competizioni qualche volta un po' fatica. L'Europa League l'anno scorso l'ha vissuta malissimo, la Champions 2 anni fa l'aveva vissuta molto bene col Napoli, però insomma ha pagato in campionato, sì, ma perché è un allenatore che ha i fedelissimi, è un allenatore che certamente fa bene, ha i fedelissimi, ha i titolarissimi, riesce anche, questo è un altro aspetto, ad ottimizzarne la preparazione, perché abbiamo più volte sottolineato come negli ultimi anni Mazzarri ha sempre avuto una squadra di giocatori integri, cioè è raro che siano stati dei lungo degenti al Napoli, e ora anche all'Inter non mi sembra che siano infortuni particolari, lasciando stare Milito, però è chiaro che sono infortuni differenti, non, problemi muscolari non ce l'ha quasi nessuno. Franco Modena, buongiorno. Buongiorno a voi. Io due punti, uno su Montolivo. Mi sembra che quando si parla del Milan in generale, ma su questo ragazzo in particolare, capisco i tifosi della Fiorentina, però i giornalisti dovrebbero avere un po' più tatto nel parlarne. Che perché senso? Nel senso che lei analizza il campionato di Montolivo dello scorso anno con le prime 10 partite fatte quest'anno e dice che l'anno scorso è stato strepitoso, quest'anno gioca da quarantenne. Se uno guarda Montolivo che gioca dall'inizio del campionato fuori posizione, perché lui ha sempre detto che può giocare davanti alla difesa, ma lì deve giocare De Jong, ha fatto 2-3 partite in nazionale dove a detta di tutti è stato il migliore in campo, quindi secondo me è ingeneroso definire Montolivo un quarantenne, non so chi è. Sono d'accordo, però secondo me... Relativamente. Io sono d'accordo, io Montolivo lo difendo dal punto di vista tecnico, dove però secondo me il punto rimane aperto, il dibattito rimane aperto è dal punto di vista della personalità, cioè la sensazione è che sia un, ripeto, un co-leader, un co-protagonista. Non è, per quello che più o meno ho capito e che ho visto, non è il giocatore al quale affidarti. Sì, però, no? Però per quest'anno non ha neanche mai acceso la scintilla dal punto di vista tecnico. Adesso lasciamo stare, preferisco giocare davanti alla difesa piuttosto che da un'altra parte, che poi insomma siamo lì. Se uno ha la personalità si va a trovare la posizione in campo e accende la luce. Quest'anno non l'ho mai visto nemmeno giocare ad alto livello dal punto di vista tecnico proprio, cioè non mi ha mai impressionato, ha sempre fatto un modesto compitino, quindi è questo che io contesto a Montolivo in questa stagione di Montolivo. Andrea Asti, poi aggiorniamo la seduta per il GR. Dica. Buongiorno, buongiorno a tutti. Due parole sulla dicotomia tra Ronaldo e Messi. Io non vedo un fondamentale del gioco nel calcio nel quale Messi è superiore a Ronaldo, mentre invece già solo dal punto di vista fisico si può tranquillamente dire il contrario. Il fatto è che Messi è ben visto da tutti, tant'è vero che ha mangiato un pallone d'oro a Iniesta nel 2010 che sembrava scontato dati i successi delle Furie Rosse al Mondiale e il campionato di Messi. Però Ronaldo vive la sfortuna, tra virgolette, di, mi viene in mente Di Caprio per parlare d'altro, è molto bello e i molto belli fanno molto invidia, oltre a essere sempre diventa gente, è il dramma di gente, bravo. Troppo bello poi. Infatti sì. Cannavaro ha vinto un pallone d'oro per gli occhi azzurri, risulta. No, sto dicendo sciocchezze naturalmente. Andrea grazie, Pierpardo grazie, ci sentiamo domani. È il bel partito dei ronaldiani però, dei Cristiano Ronaldiani. Dopo i Cristiano sociali ci sono i Cristiano Ronaldiani. Sì. Ciao Pier, grazie. Ciao belli. Ciao. Tutti convocati. Tutti convocati. Sarà un turno infrasettimanale di campionato più triste. È volato via oggi un grande collega, un maestro di questo mestiere. Il suo nome era Franco Rossi. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Tra poco facciamo un viaggetto negli Stati Uniti, dove è iniziata la NBA, lo sapete, nella notte, se non lo sapete ve lo dico. A proposito, mi scuso con un ascoltatore che ieri mi ha rimproverato, non mi ricordo con quale strumento di comunicazione, se Twitter, Facebook, mail, perché ho detto il risultato delle World Series. Ma come, non parli mai di baseball una volta che mi registro la partita? Voglio andare a casa, mettermi in tuta davanti alla televisione e guardarmela, tu mi dici il risultato. Mi scuso, ma insomma, faccio questo mestiere, le World Series sono un grande evento, parleremo di questo, dell'NBA, di Barnier a New York, di David Beckham, che questa è carina, che diventerà proprietario di un club professionistico di calcio in America. Adesso mi cerco l'agenzia e comincio a buttarvela lì. No, Marino, se vince Roma scudetto mi spoglio, no. Galliani, non ci sono quote del Milan in vendita, no, eccola qui. USA, Beckham fonda una squadra a Miami, nuova avventura americana per l'ex capitano della nazionale inglese di calcio David Beckham, stavolta non come giocatore ma come patron di una nuova squadra del campionato professionistico Major League. Indovinate un po' dove Beckham va a fondare la squadra? Certo non nella provincia depressa, ma a Miami. Allora, io vorrei farvi risentire, per tirarvi su il morale, un Blatter che parla di nuovo di Messi, visto che è un argomento che interessa a molti. Altra battaccia di Blatter. Lionel Messi is a good boy that every father, every mother would like to have it at home and really it's really it's a good man. He's very fast, and he's not exuberant. He's playing well. He's dancing. He's a kind man. He's really good. He's a good boy. Questo Blatter, che non perde mai occasione buona per stare zitto, ha infilato una serie di perle di cui vi faccio un rapido riassunto prima di andare da Fabrizio, che è un ascoltatore già in linea. Allora, sulle proteste in Brasile disse: il calcio è più importante dell'insoddisfazione delle persone. Vi ricordate gli scontri durante la Confederation Cup? sulle leggi discriminatorie in Qatar, disse: i tifosi gay si astengano dal sesso e verranno ammessi negli stadi senza problemi. Legittimato un brivido di disgusto. Sul razzismo ha detto una volta una sciocchezza, al massimo qualche parola o gesto non corretti, ma basterebbe dire che è solo un gioco e stringersi la mano. Fabrizio Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Preferirei non commentare le dichiarazioni di Blatter. Anche perché si commentano da sole. Anche perché si commentano da sole. A proposito, sa che cosa ha scritto per scusarsi in maniera del tutto goffa, ovviamente, con il Reale, con Ronaldo? Sa cosa ha scritto su Twitter? Sì, ho sentito qualcosa ieri sera, però non ricordo esattamente. Allora glielo ricordo io. Chiedo scusa al giocatore e alla comunità calcistica portoghese. Le mie frasi sono state estrapolate e fraintese, quindi se sono state estrapolate e fraintese vuol dire che non sono mai state pronunciate. Non intendevo mancare di rispetto al Real, club fondatore della FIFA e che ammiro sin da giovane. Dica Fabrizio. No, io chiamavo per il Milan. Io sono, ho 47 anni e ho seguito il Milan da Champions League o la Coppa dei Campioni dell'epoca, fin da Milan-Manchester City, quando perdemmo in casa 1-0 con gol rocambolesco, errore di Albertosi. Sì. E ripercorro la strada del Milan per arrivare a dire che quest'anno la sensazione a livello di Champions, se mettiamo a posto la difesa e recuperiamo qualche giocatore in mediana, che non è per niente male, e l'attacco lo sistemiamo con El Shaarawy, la sensazione, sto toccando ferro, che potrebbe essere l'anno del Milan a decimo, undicesimo posto in campionato, ma con delle buone possibilità di Champions. Addirittura? Cioè vittoria Champions League? No, io non credo. Va bene Fabrizio che il Milan ha un carisma particolare in Champions League, va bene che quello è il suo territorio di caccia preferito, nonché il preferito dal proprietario, va bene tutto, però va bene che la Champions League si gioca sulle emozioni, sulla singola partita, sugli episodi, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene tutto questo, però in tutta onestà sarebbe la sorpresa del secolo. Noi l'abbiamo nel DNA, attenzione, sì, perché no, Milan la sua storia l'ha fatta a livello internazionale e in Italia ha sempre quella atteggiamento di inferiorità che non si riesce a spiegare nei confronti, sì, ma di perché Juventus. sa a furia di dire ai giocatori ma tanto a noi, questo negli anni a noi interessa solo la Champions League, a noi interessa solo l'Europa, del campionato ce ne importa nulla se non per quelli che freghiamo, gli facciamo fare l'abbonamento lo stesso e poi ci lamentiamo se non sono abbastanza. Alla fine, se dici queste cose ai giocatori, ma questo lo dico negli anni in cui il Milan aveva veramente la squadra per vincere lo scudetto e magari a ottobre si trovava più o meno nella posizione in cui si trova oggi, perché è successo molte volte, per chi non ha la memoria corta, i giocatori alla fine ci credono e dicono vabbè, allora mi gioco in Champions League, che mi importa il campionato, tanto mi dicono che non conta niente. Al di là di tutto questo, sinceramente questo Milan vale a dir tanto gli ottavi di finale come valore assoluto nel quadro della competizione. Poi se le stelle guardano da un'altra parte magari e si distraggono, magari il Milan può fare qualcosa di più. Allora, come promesso, vi porto negli Stati Uniti. Ciao Simone Sandri da New York. Buon pomeriggio Carlo. Vorrei ovviamente iniziare dalla cronaca e dalle tre partite della notte con LeBron che batte il rientrante Derrick Rose, quindi Miami batte Chicago 116-103, Indiana su Orlando 97-87 e i Lakers di D'Antoni che cambiano pelle, che non hanno Kobe Bryant, che non sembrano esattamente in una stagione da titolo, che vincono il derby di Los Angeles. Sì, possiamo partire subito da quest'ultima perché è un po' la grande sorpresa di questa prima giornata, per i Lakers che un po' tutti gli addetti ai lavori considerano come una squadra allo sbando, che non arriverà neanche ai playoff, anzi farà fatica magari a competere in quasi tutte le partite. Invece ieri è stata una dimostrazione di essere una squadra d'antoniana, se ce n'è una. Ha fatto 41 punti in ultimo quarto, le riserve hanno giocato tutto l'ultimo quarto facendo cose incredibili, è un po' il marchio di fabbrica del vero D'Antoni, quello di scoprire giocatori di secondo piano, magari l'ultimo anno di contratto, e poi portarli, prenderli per mano e portarli a magari un buon contratto, gente come ma anche questo Harry, come Jordan Farmer o come Nick Young, un giocatore che per esempio piace molto. Detto questo, i Lakers sono una squadra un po' strana, credo che difficilmente potranno comunque arrivare a una posizione, alla posizione che compete ai Lakers. Credo che alla fine però siano forse un pochino meglio di quello che la gente pensi, una squadra che può competere magari per il settimo, anche magari il sesto posto ad ovest. Beh, esce da un terremoto che è quello dell'anno scorso, dove aveva speso una montagna di soldi, aveva costruito una squadra potenzialmente epocale, e poi è stato un bagno di sangue, un sportivo, naturalmente. Sì, assolutamente, è stata forse nella storia dell'NBA una dei più grandi tracolli. Il più grande flop, sì. Sì, per il tipo di aspettative che avevano, perché addirittura c'era qualcuno che pensava che potesse battere quel tipo di squadra, quel tipo di gruppo, potesse addirittura battere il record di 72 vittorie dei Bulls in stagione regolare, e invece è stato un flop totale. Detto questo, bisogna anche dire un pochino di sfortuna, tanti infortuni, e la considerazione forse su Dwight Howard, che forse qualcuno si era sbagliato, probabilmente un giocatore che si trova più a suo agio nello Star Game. Sì. Sento un personaggio dello Star Game, gara delle schiacciate, diciamo. Sì, io sono un pochino di parte, perché non sono un suo grandissimo fan, perché lo ritengo un po' più limitato, un po' un giocatore abbastanza limitato da un punto di vista tecnico, perché è un giocatore che non è al 100% e fisicamente non ti può distruggere fisicamente. Lui ha questa potenzialità, perché se sta bene è un giocatore assolutamente immarcabile. Se lui però non sta bene, allora diventa problematico, perché non ha troppi movimenti in post, non riesce a segnare a difesa schierata, se proprio non ti domina fisicamente, poi ha questo problema ai liberi che è grave. Un po' fighetta, cui, insomma. Diciamo, sì, per usare una parola non elegante ma molto efficace, come sta andando il mago dalle tue parti a New York? Il mago, sono curiosissimo stasera di andare al Garden a vedere la prima dei Knicks, perché c'è anche questa questione sul mago, che è partito titolare durante la pre-season, è stato un po' altalenante al tiro, ma il suo l'ha fatto, anche difensivamente ha fatto anche delle discrete prestazioni. Come ho detto, è stato un po' altalenante al tiro. I Knicks sono stati altalenanti in questa pre-season, e c'è questa possibilità che Mike Woodson l'altro ieri ha detto che non ha ancora deciso chi partirà titolare, se partirà il mago o se partirà Metta Warpiece, spostando quindi Anthony da 4, giocando bassi come spesso ha fatto l'anno scorso, con il mago che potrebbe partire dalla panchina. Non sarebbe una bella cosa per lui, perché vorrebbe dire comunque tira poi butta dalla panchina con Stoudemire e con Smith è squalificato per le prime 5 partite, però quando ritornerà comunque non avrà tutto lo spazio che magari in questo momento potrebbe così. Sono molto curioso di capire che tipo di prospettiva scenderanno in campo i Knicks, e soprattutto con che tipo di quintetto. Sì. Simone, prima di salutarti ti chiedo un pronostico secco per i nostri amici scommettitori, magari. Chi vince il titolo di baseball, la World Series? Boston è vicinissima ad accendere il sigaro. Poso in pieno la tesi di Adam Wainwright, il partente di St. Louis, che è stato dominato nelle sue due uscite, che ha detto: se riusciamo a vincere due partite consecutive a Boston, facciamo qualcosa di assolutamente sporco. Sì. Non credo che lo faranno, credo che Boston vince stasera. Grazie Simone! Però le quote sono basse, i miei amici commentatori, le quote sono proprio basse, per cui... Ci vogliono tanti soldi da puntare. Grazie a Simone Sandri, da New York. Franco Pietrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, in regia. Ci sentiamo domani alle 2, tutti convocati. Oggi Carlo non ha mai pronunciato il nome di Mario Balotelli.